Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo alla fine della settimana e come sempre abbiamo il piacere di ospitare con noi attraverso il telefono l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori. Saluto quindi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, buongiorno ai radioascoltatori. Allora Gianluca, abbiamo parlato in questa settimana dei voli aerei, perché ci sono le difficoltà nelle quali si può incappare, perché siamo nel periodo delle vacanze. Ma è proprio vero che tutti vanno in vacanza? No, sappiamo che come sempre insomma c'è una fetta consistente di popolazione che non farà neanche un giorno di vacanza, e diciamo, non siamo in un periodo in cui le vacanze sono la prima cosa a cui pensano gli italiani, e lo conferma l'Istat che con la sua consueta fotografia cerca un attimo di raccontare un po' cosa stia succedendo appunto in Italia. E recentemente appunto i dati diffusi dall'istituto parlano appunto di un aumento di persone che quest'anno rinunceranno alle ferie. Diciamo, Francesco, che una persona su due non andrà in ferie. Quindi è sicuramente, sono dei dati in aumento rispetto agli anni precedenti, però insomma è da tempo ormai che noi analizziamo un po' l'andamento delle ferie. E sappiamo che soprattutto dal nuovo millennio, dall'avvento dell'euro, non per colpa dell'euro ma per tante motivazioni, la gente ha cominciato a diminuire i giorni di vacanza, a cambiare periodi per poter risparmiare. Insomma, diciamo che alla fine lo certifica anche l'Istat, metà italiani non andranno in ferie, quindi se ne saranno in città, magari penseranno a fare la classica gita domenicale, da pendolare, sì, in spiazza, in montagna. Io mi ricordo quando ero piccolo, quando si parlava di ferie, si parlava di 3-4 settimane. Cioè, ho una certa età, quindi dobbiamo andare indietro di una quarantina d'anni. Però 40 anni fa... diciamo che con me è la stessa cosa, e mi ricordo perfettamente... Le vacanze comunque erano almeno di 2 settimane, questo era il minimo. Che ci si concedeva, e quindi insomma le fabbriche stavano chiuse ad agosto, quindi insomma erano altri periodi sicuramente. Ora le difficoltà sono aumentate, diciamo che comunque la spesa per le vacanze non viene considerata una priorità, anche se sappiamo che comunque se può l'italiano in vacanza ci va. Certo, quindi, ecco. L'Istat ha rilevato quindi che un italiano su due è detto rinuncia alle ferie, però sono aumentate altre spese. Sì, rispetto a un trend che era abbastanza negativo per quanto riguarda i consumi alimentari, invece l'Istat dice che la gente, almeno nel 2015 rispetto al 2014, ha speso di più insomma per la spesa al supermercato, ed esattamente in media, diciamo che se nel 2014 ogni famiglia al mese ha speso in media 436 euro, questa spesa è aumentata di 5-6 euro ecco, nel 2015. Chiaramente insomma poi dipende molto anche dalle città, dipende dal nord e dal sud, però certifica appunto un aumento minimo dell'1,2% della spesa alimentare. E qui aggiungo che c'è una piccola novità, e cioè che nel 2015 è anche aumentato il consumo della carne. Nell'ambito della spesa di 441,50 euro registrata nel 2015, la spesa media mensile per famiglia, e la carne rappresenta circa 100 euro di spesa. E ecco, questo diciamo è un trend sicuramente in crescita dopo un periodo forse in cui la carne è stata molto demonizzata per buone ragioni, cattive ragioni, questo lo giudicano le persone, le famiglie, però insomma è tornato un po' ad aumentare. Come tra l'altro, e anche questa è un po' una curiosità, ti ricordi quando si diceva che i ristoranti erano tutti pieni? Mm-hmm. E dobbiamo dire che nel 2015 è aumentata anche la spesa per quelli che vengono definiti i servizi ricettivi, che per lo più comprendono la cena al ristorante, il pranzo al ristorante o anche il pernottamento in albergo. E nel 2015 si è registrato un esborso mensile medio per famiglia di 122,39 euro contro i 110,26 euro del 2014, però diciamo che il 2014 è stato un anno molto negativo sotto molti punti di vista. Infatti già andando indietro di un anno, nel 2013, la spesa era stata più elevata. Ecco, quindi diciamo una fotografia che regala un po' di luci e di ombre per molti aspetti, per cui abbiamo detto, sono aumentate le spese per i consumi alimentari, per i servizi ricettivi, ma comunque la gente per esempio rinuncia sempre di più alle ferie, rinuncia sempre di più alle vacanze. Per quanto possiamo vedere noi, Francesco, chiaramente noi siamo un'associazione di consumatori, quindi da noi viene chi ha dei problemi, ovviamente. Però vediamo situazioni sempre più difficili, soprattutto per quanto riguarda i debiti delle persone nei confronti di finanziari, nei confronti delle banche, e soprattutto il difficilissimo rapporto tra i risparmiatori e le banche stesse, testimoniato dagli scandali qua in zona nostra di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza. Quindi il settore nostro, ma credo il settore di molte persone, è di una difficoltà generalizzata e di una ripresa ancora molto lontana. Intanto se riusciamo godiamoci almeno un paio di giorni di vacanza, usciamo per un weekend lungo, per chi può, magari ci si può organizzare una tenda da campeggio ci vuole, ma cambiare aria fa bene, assolutamente, anche perché sentivo un medico qualche tempo fa che diceva che per stare bene dovremmo scappare dalla pianura padana perché è la più inquinata d'Italia. Vabbè, purtroppo, quindi questo dovrebbe farci pensare. Un altro triste dato appunto che dovrebbe farci pensare. Quindi si può magari veramente 2 o 3 giorni però cambiare un po' l'aria, riposarsi un po', sicuramente può aiutare anche per tornare al lavoro più grintosi di prima. Grazie a te Gianluca, ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.